Oggi faccio un passo avanti, voglio stare in silenzio. Avvolto dal mio rumore, voglio anche pensare. Con la forza della mente voglio provare a volare. Allontanarmi più che posso dallo stress e dai desideri. Intanto le voglie mi cercano la luce, appoggiate le cornicioni, osservano le distanze. Stare attento a ciò che non si fa caso. Quanto sia bello il cielo quando piove. Quanto sia bello il mare quando si muove. Armi dai rumori quotidiani, ascoltare la natura, la vita che ci ha donato. Intanto le rovine cercano la luce, appoggiate le cornicioni, osservano le distanze. Intanto le rovine cercano la luce. Avanti, voglio stare in silenzio.